Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a chi ci ha chiesto. Ogni tanto anticipiamo i 100 secondi prima del programma. Allora, di cosa parleremo oggi? La cronaca di questa giornata economico-finanziaria. In attesa di capire che cosa succederà al gruppo editoriale Espresso Repubblica e alla Stampa di Torino, e quindi anche al Secolo XIX di Genova. Perché lo dico? Perché non è un mistero, ma insomma il titolo L'Espresso oggi, sospeso per eccesso di rialzo, poi riammesso in quotazione, è arrivato a guadagnare tantissimo. Perché? Perché sono girate voci molto insistenti di un possibile accordo tra De Benedetti e la famiglia Agnelli, quindi diciamo il gruppo Fiat, di un'eventuale fusione. Parlo in maniera diciamo vaga perché non se ne sa assolutamente nulla. Secondo ricostruzione di stampa, l'operazione prevederebbe la fusione fra il gruppo L'Espresso e la Itedi, che è la società che controlla la Stampa di Torino e il Secolo XIX di Genova. Secondo le stesse indiscrezioni, l'operazione potrebbe permettere l'addio di Fiat Chrysler al gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Come si muovono i titoli? Si erano mossi molto, nel senso che L'Espresso era arrivato a guadagnare tantissimo, ma fino al 9% quasi. Fiat guadagnava e guadagnava anche in maniera insistente, adesso piglia l'1,80%. Rizzoli Corriere della Sera è arrivato a guadagnare il 3,70% e adesso guadagna il 6%, eccola qua, il 6% a 60 centesimi di euro per azione. L'Espresso guadagna adesso il 15,25%, quindi riammesso a contrattazioni, ha strappato fino al 16%. Insomma, a giudicare dal movimento di borsa l'operazione qualcosa di vero ce l'ha, però questa è la borsa, vedremo. Fatto sta che oggi dovrebbe esserci una comunicazione a borsa e a mercati chiusi. Il numero uno di Fiat, Sergio Marchionne, dal Salone dell'Auto di Ginevra ha detto: siamo qui per vendere vetture, zero commenti. L'Espresso oggi ha presentato i dati sul 2015 con un risultato in crescita di 17 milioni di euro, quasi raddoppiato, anzi raddoppiato rispetto agli 8 milioni e mezzo dell'anno prima, ricavi in leggero calo a 600 milioni. Però, ripeto, al di là dell'indiscrezione della stampa inteso come dei quotidiani, anche il fatto che Marchionne dica non commento e che si annunci una comunicazione a mercati chiusi, più l'andamento di borsa, dico, insomma, magari ci sbagliamo, però insomma tutti gli elementi indiziari portano a dire che qualcosa hanno da comunicare, e di questo eventualmente parleremo. L'altra notizia, eventualmente se arriva la notizia in tempo utile, l'altra notizia importante riguarda invece quello che sta capitando al governo sul fronte mutui. A mio avviso si sta infilando in un cul-de-sac leggermente il governo, perché poco fa il vice ministro dell'economia Zanetti ha detto: attenzione, al di là della gazzara dei 5 Stelle la norma è migliorabile, e Zanetti ha detto che il governo è disponibilissimo a portare correzioni al decreto della direttiva europea sui mutui. Che cosa è successo per chi si fosse perso le puntate precedenti? Che c'era una direttiva, e poi la racconteremo, che andava a cambiare sostanzialmente quando le banche possono rientrare in possesso dell'immobile. La cosa che ha fatto inalberare e preoccupare sono le 7 rate non pagate. Dopo le 7 rate non pagate, oggi i 5 Stelle hanno bloccato l'ingresso in Commissione Finanze, hanno occupato il corridoio esponendo un cartello: la casa non si tocca. La battaglia andrà avanti fino al ritiro del decreto, li fermeremo anche domani, il governo non vuole dialogare. Poi Fiano del PD è stato espulso dall'aula della Camera, mentre il capogruppo del PD Trosato contestava l'atteggiamento dei 5 Stelle in commissione sui mutui. Praticamente c'è stato uno scontro quasi tra Fiano e i 5 Stelle, Fiano è andato sul banco della presidenza a protestare, al terzo richiamo è scattata l'espulsione. La Meloni con Fratelli d'Italia promuove il ricorso alla Corte Costituzionale. Allora, se vogliamo parlare del clima di fiducia, visto che il presidente Renzi ci tiene molto a dare un racconto ottimista, perché sa che la fiducia è un elemento, una variabile economica, ebbene, uno dovrebbe riflettere se nella mia scelta di fare investimenti come impresa o come individuo singolo sia più importante lo 0,3, lo 0,1 rivisto, lo 0,8 di PIL, lo 0,3 in meno di tasse diffuso ieri, o i timori che vengono toccate le pensioni e ogni mese c'è una voce che parte dal governo, qualcuno della maggioranza che dice forse l'INPS tiene, non tiene, le pensioni, cosa faremo con le pensioni, oppure ipotesi come questa sui mutui. Perché al governo deve essere molto chiaro che se la comunicazione che arriva è attenzione, alla settima rata da casa ti viene levata, qualunque italiano che paga un mutuo terrà i soldi da parte per evitare anche la benché minima possibilità che scatti questa operazione. Ok? Quindi i consumi interni, altro che raccontare, la narrativa e la narrazione del PIL, diciamo, è cinematografica, perché poi alla fin fine io mi muovo su altre indicazioni. 349-238-6666 per i vostri sms, per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, le altre notizie in breve. Giustamente mi faranno notare gli ascoltatori che non ho dato gli indici di borsa, avete ragione, Parigi più 0,20, Francoforte più 0,50, Londra meno 0,20, Milano bene più 0,80%, sopra i 18.000 euro, i 18.000 euro magari, i 18.000 punti l'indice FTSE MIB, 18.160, tra i titoli bene le banche oggi e le popolari, Banco Popolare più 7,60, UbiBanca più 5,40, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 5, Unicredit più 4,80, Pop Milano più 4,60. Chi perde oggi? Luxottica meno 5,12, Terna meno 2,26, CNH meno 1,60, Atlantia meno 1,5 come A2A e Mediaset, e Buzzi Unicem, Snam meno 1,30, Finmeccanica meno 1,20, Tods meno 1% come le Poste Italiane. Tra le banche bene anche Intesa San Paolo più 3,60, Mediobanca più 4,14, Monte dei Paschi più 3,60 anch'essa. Vedo anche molti messaggi su Espresso, La Stampa, adesso ci arriviamo, se abbiamo una notizia ci arriviamo. C'è stato il Consiglio di Amministrazione, è confermato che arriverà una comunicazione ai mercati chiusi sull'ipotesi Repubblica Stampa, questo non è in dubbio, questo è confermato. Allora, adesso arriviamo anche alla vicenda dei mutui. Ci arriviamo tra pochissimo, un pochino di pazienza perché ho ancora altre notizie. Allora, per quello che riguarda il fronte internazionale, oggi bene il PIL della Svizzera, più 0,4% sopra le attese. E poi ancora l'Unione Europea continua a ragionare su un piano da 700 milioni di euro di aiuti umanitari, uno strumento di assistenza d'emergenza per operazioni di soccorso umanitario. È un piano che dovrebbe servire in primo luogo a una Grecia in ginocchio. Noi ci occuperemo, se tutto va bene, la prossima settimana di raccontare questa Grecia, che è da un lato la frontiera che non si può chiudere dell'Europa e quindi sta diventando la camera di compensazione di tutti i flussi migratori, dall'altro di nuovo in ginocchio economicamente, quindi è veramente due volte la parte più debole di questa Europa, e non necessariamente per colpa sua. Allora, passiamo alla narrazione di quello che sta succedendo. Iniziamo dai dati di ieri. Oggi su questo è tornato il Presidente del Consiglio, ha detto basta polemiche, i dati dimostrano che si sblocca il Paese. Lo ha detto dopo aver visitato il cantiere della Nuvola di Fuxas a Roma. Il messaggio che vorrei dare è che si sblocca il Paese. Dopo tante polemiche, i dati sono finalmente positivi sulla ripartenza dell'Italia. I dati del Jobs Act, del PIL, le cose di cui abbiamo discusso ieri, però l'Italia cresce davvero se finalmente ripartono gli investimenti e le infrastrutture, se riparte un modello diverso di edilizia, se ripartono le piccole e medie aziende che lavorano in questo settore. E la prima cosa da fare è finire i lavori incompiuti. Ce ne sono alcuni bellissimi di architetti di fama internazionale, ce ne sono tanti altri nelle nostre città che sono purtroppo fermi. Il nostro obiettivo è sbloccare, basta con le polemiche del passato. Il nostro governo ha l'intenzione di farle finalmente chiudere, dando l'occasione il prima possibile ai sindaci di tagliare i nastri e di vedere finalmente queste opere in attività. E poi Renzi si è spostato all'azienda IRBM con sede a Pomezia. È il centro di ricerca, oltre che un'azienda, se così vogliamo dire, che riuscì a isolare il virus di Ebola, quindi è un esempio di eccellenza italiana. E su questo voglio essere chiaro, fa bene il Premier a visitare le imprese, quelle eccellenti. Per anni abbiamo avuto Presidente del Consiglio che se ne fregavano dei nostri imprenditori e delle nostre imprese, c'era sempre una narrazione dell'imprenditore brutto, cattivo, che sfruttava i dipendenti, e il tessuto produttivo di questo paese era sconosciuto alla Prima Repubblica, nella parte finale soprattutto, ma anche a parte della Seconda Repubblica. Comunque Renzi lì ha detto da Pomezia: non c'è un contro racconto dell'Italia, il mio non è un contro racconto, una contro narrazione, per non parlare di quello che non va. Io voglio dimostrare che l'Italia può stare tra i leader, c'è ancora molto da fare, a partire dalla sfida sulla legalità. C'è ancora molto da fare nel paese, ci sono ancora tante riforme da fare, tante cose da cambiare, però l'Italia è questa cosa qua, è l'Italia che quando si rimette in moto può essere leader mondiale, indipendentemente da come sono le varie classifiche. Posso dirvi una cosa semplice: finché c'è un cervello in Italia che ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo, finché c'è questo, c'è un paese che è coerente con la sua storia. L'Italia è sempre stata sta roba qua. Soltanto negli ultimi anni ci siamo totalmente autofustigati con tutte le cose che non andavano. Ora io dico, le cose che non andavano ci sono, c'erano, ce ne sono un po' meno, dovremo sempre combatterle giorno dopo giorno. Una sfida gigantesca per la legalità, per la trasparenza, per l'onestà. Una sfida fantastica per il merito, per la qualità. Però c'è anche un paese che ha tutte le caratteristiche per poter immaginare il futuro. Ascoltatore, quante volte userà ancora la parola narrazione? Veramente non è che siamo noi a usarla molto. Iniziò anni fa Nicky Vendola, che la usava ogni 3x2, e mi sembra che sia un tema forte degli interventi del nostro Premier. Noi ci siamo permessi di invitare a una prudenza, che non vuol dire pessimismo. La vita non si divide tra gufi e allodole, non sono queste semplificazioni, guelfi e ghibellini. Ma diciamo un realismo, la vita è più complicata, è articolata, ci sono delle cose che vanno bene, delle cose che vanno male, delle cose che sono state un successo, delle cose che potevano andare meglio. La spending review non è stato un successo, non si può dire tutto va bene ma da Madama Marchesa. Questo è il problema del governo, perché sennò poi non sei più credibile su niente. Se invece dici quello l'abbiamo fatto, ed è vero che l'hai fatto, Jobs Act, riforma della scuola, quello che, e altre cose le abbiamo fatte meno peggio, sei più credibile, ma lo spieghiamo. Insomma, invece no, la spending l'abbiamo fatta, abbiamo tagliato 25 miliardi, sì, 20 però sono aumentati, abbiamo scoperto che poi sono tagli non sempre mirati, per quello che poi diventa difficile raccontare questa narrazione, così lo uso per la quinta volta sta parola. Però andiamo ai mutui. Allora, il tema è molto semplice e lo pongono due ascoltatori. Uno dice: ma insomma, perché vi lamentate se adesso noi ricepiamo una direttiva europea che permetterà alle banche di, dopo 7 rate del mutuo non pagate, anche non consecutive, la banca è autorizzata a vendere l'immobile senza passare dalla lunga e spesso anche incerta trafila delle procedure esecutive, che giustamente ci mettono anche 7 anni, giustamente nel senso che sono lunghe. Per cui un ascoltatore dice: avete sempre chiesto che sia più facile recuperare i crediti a garanzia, gli immobili sono spesso crediti a garanzia di prestiti ottenuti dalle famiglie con un mutuo, ma anche dalle imprese, e adesso vi lamentate se noi recepiamo questa normativa. Sa, c'è un problema, ed è il problema che pone un'altra ascoltatrice che lavora in banca e mi dice: guardi, io ho un cliente a cui probabilmente la banca porterà via la casa perché non può pagare le rate, in quanto è in corso una causa ferma al Consiglio di Stato da 2 anni. Allora, quanto è una giustizia che funziona in questo modo? Hai dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, hai gli enti locali, soprattutto al sud, e soprattutto le ASL che pagano a 1 anno, 2 anni, 3 anni, ma cosa diventi? Va benissimo recuperare il credito, però devi dare una garanzia a questa persona, perché se io ho vanto dei crediti dallo Stato, se mi deve pagare una pubblica amministrazione e poi tu mi devi la casa perché io non sono riuscito a pagare le rate, beh, così viene fuori la rivoluzione sociale. Chiedo a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera, sei previsto? Mi senti, Giovanni? Certo, eccoci qui. Io ti sento un po' invece intubato. Se da quello che si è capito sono previste almeno delle clausole di eccezionalità, oppure no, perché sai, quello che si teme in questo paese è questo, perché poi tu hai un'amministrazione pubblica che ha ritardi, che non te paga, che la giustizia civile che ha delle lentezze incredibili, e magari ti devono dei soldi. Chiedo. Sì, in effetti la formulazione delle nuove regole, così come è stata depositata alle commissioni parlamentari, non prevede così tante forme di specifiche e di regole così dettagliate e precise. Di fatto viene fatta appunto un recepimento che stabilisce che le parti, quindi il contraente e l'istituto di credito, la banca che eroga il mutuo, possono stabilire al momento della firma del contratto o successivamente, anche questo è un aspetto molto controverso, procedere a una alienazione, quindi una vendita del bene, in caso di inadempimento, senza appunto dover necessariamente passare dal tribunale e dalla procedura esecutiva. Da qui però la norma ha fatto scaturire tutta una serie di problematiche, che sono ad esempio l'applicazione della regola delle stesse rate del mutuo. È una regola che basta di per sé a configurare un inadempimento, quindi in qualche modo a configurare l'insolvenza del contraente? Poi questa norma è retroattiva o meno? Cioè, si applica ai contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore, oppure quel successivamente di cui parlavamo prima consente anche ai vecchi mutui? Allora, su questo almeno un'interpretazione che dovrebbe essere autentica l'ha data oggi il presidente dell'ABI, Patuelli, a margine di un convegno alla LUIS. Ha detto: attenzione, non c'è rischio della casa pignorata, non riguarda il passato ma solo le possibilità future. Ascoltiamo la microfono di Nazareno Orlandi. Il documento del governo di recepimento non riguarda fatti passati, riguarda solo eventualità, possibilità lasciate alla libera contrattazione fra le famiglie da una parte e singoli istituti bancari che fossero interessati dall'altra. Niente per il passato, niente che riguarda i crediti deteriorati, e il testo della direttiva e del recepimento proposto dal governo al Parlamento limitano questa possibilità, eventualità, solo per il futuro. Il rischio non c'è. Quindi vale solo per il futuro, sì, non è che questo, sì, intanto è importante. No, guardi, io rispondo allo scrutatore, io non sono dell'idea che chi fa un mutuo e poi non lo paga si possa tenere la casa, e mi sembra che non capiti proprio così. i pignoramenti esistono e le ipoteche esistono. Dopodiché siamo dell'idea che le banche possono recuperare, non certo in 7 anni di tempo. Si voleva capire se, il timore, guardi, lo dico molto tranquillamente, poi dopo il metro parente ce lo chiarirà, è che vengono previste tutte le fattispecie, perché anche il tema, Giovanni, è la banca, è un accordo che tu firmi con la banca, per cui la banca che inserisce questa clausola. Attenzione, c'è chi teme che poi se la banca inizia a dirti sì, se hai questa clausola ti tengo il conto corrente a questo tasso, se non ce l'hai mi tocca alzarti altri servizi. Sappiamo come funziona delle volte in banca, non è che siamo tutti alla pari, no? Come Popolare di Vicenza, Veneto e Etruria, Chieti, Ferrara e come manca Marche dimostrano. Per cui il timore che poi quando sei lì a cercare il mutuo uno ti dica guarda, se vuoi, se è così bene, se no hai altri costi, c'è fortissimo. Dopo il meteo la risposta. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora chiariamo il recepimento della direttiva europea, che aveva anche un buon fine, è quella che metteva anche certezza sui tempi di pagamento delle fatture anche tra privato, ed era quella di dare una garanzia a chi ha dato un mutuo, in questo caso le banche, e ha come garanzia la casa. C'è un piccolo problema: la regola del ritardato pagamento di 7 rate del mutuo, che consente di avviare le procedure di esecuzione, esiste già nel testo unico bancario, se non ricordo male, Giovanni, è l'articolo 40. Esattamente. Qui la differenza qual è? Per cui lo dico anche ai bancari che mi scrivono, allora non abbiamo il diritto di... No, esiste già. La differenza è che in questo caso tu non passeresti più dal tribunale e quindi le procedure esecutive, che possono durare anche 7 anni, ma sarebbe in automatico, lo farebbe la banca sulla base di un contratto stipulato quando ti è erogato il mutuo o durante il mutuo, se ho ben capito. E allora perché le cose si complicano? Uno, perché in un paese normale tu non vai a creare questa fattispecie, chiedi che i tribunali siano più veloci, che non ci mettano 7 anni. Due, qui iniziamo a stabilire anche quando la banca dirà ci deve essere questa clausola, come utilizzerà questa clausola, quanto libero sarai tu di dire sì o no a questa clausola. Questo è un po' il problema. C'è poi un ascoltatore che mi dice: lei sta facendo un allarmismo per nulla. No, guardi, l'allarmismo non lo stiamo facendo. Le faccio ascoltare il membro del direttore del 5 Stelle, Alessandro Di Battista, al microfono del nostro Nazareno Orlandi. Hanno bloccato oggi 5 Stelle l'ingresso in commissione finanze per impedire la discussione del decreto legislativo di cui stiamo parlando, quindi non è che non siamo noi ci occupiamo di notizie. Di Battista: questi salvano le banche in ogni modo e toccano pure i patrimoni di cittadini italiani. Bene, non entrano, non se ne può più di subire le loro malefatte regolarmente, non entrano in commissione se non ritirano questo decreto. Dicono che non è vero che la prima casa appunto è in pericolo, non è vero che le banche se la possono prendere. Alla fine, se non si alzano i toni, passano le porcate, per cui in maniera tranquilla, però siamo qui fermi e non devono passare, non devono entrare in commissione finanze se non ritirano un decreto osceno che mette in pericolo la casa dei cittadini italiani. Vabbè, qua c'è il primo commento su un errore politico. Un decreto del genere, Giovanni, non lo fai passare così in commissione, lo spieghi prima, no? Beh, sì, infatti forse è stata sottovalutata la portata. Ma ho capito, però vedi, non ce l'ho con te, Giovanni, però viene sottovalutata la portata del decreto salvabanche, tra cui l'Etruria, di fine novembre. E viene sottovalutata la portata del decreto che va a cambiare la posizione dei nuovi proprietari di casa adesso. Cioè, quando poi gli ascoltatori fanno la battuta, allora fammi capire, se le banche vanno male paghiamo noi correntisti, se io non ho i soldi per pagare il mutuo la banca si prende la casa, beh insomma, no? A proposito di narrazione, ci si va vicini. Il problema è che quando hai decreti così delicati li devi spiegare, perché Zanetti poco fa ha detto, il viceministro, il governo è disponibilissimo a fare correzioni. Ho capito, perché t'han bloccato l'ingresso in commissione, sembra quasi. La norma è migliorabile, ma i 5 Stelle fanno cinema. Ho capito, ma se i 5 Stelle non avessero fatto sta cosa, oggi non ne parlavamo neanche a Focus Economia, Giovanni. Sì, no, è vero, no, hai perfettamente ragione tu. Il mio mi limitavo a dire che probabilmente è stato fatto passare così perché si trattava anche di un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, non di un decreto né di una legge parlamentare, quindi in qualche modo c'è stata, come dire, una sottovalutazione di quella che poteva essere la conseguenza di un recepimento, diciamo, forzato o non adatto al tessuto immobiliare e al tessuto bancario italiano. Questo è sicuramente il ragionamento da fare. Ma io sono convinto che abbia ragione Zanetti quando dice si possono fare correzioni, ne abbiamo individuata una su tutte. Inizia a creare le eccezioni: se lo Stato non mi paga, se la ASL non mi paga, se il fornitore non mi paga, se ho delle cose aperte, se ho dei crediti di imposta con l'Agenzia delle Entrate, con il lato chiaro dell'Agenzia delle Entrate, beh, insomma, queste devono valere come eccezioni. Allora, inizia a tranquillizzare, altro che consumi interni, se tu che spaventi su questa cosa. Io veramente sono abbastanza allibito da questa ingestione o gestione approssimativa di un tema delicatissimo come quello dei mutui. Ti ringrazio Giovanni, staremo a vedere che cosa, per ora mi sembra che il governo si fermerà e vediamo che formulazione otterrà. Traffico. Focus Economia. Come è presumibile, vedo molti messaggi ancora sul tema dei mutui. Sì, hanno ragione gli ascoltatori che dicono: guardate che tra l'altro il problema delle sofferenze bancarie è spesso legato ai prestiti alle imprese. Sì, dove però anche nei prestiti alle imprese alle volte ci possono essere degli immobili non solo i capannoni a garanzia. Ma infatti il problema è circoscrivere l'applicazione di questa cosa a casi veramente, diciamo, in cui la banca ha ragione. Se uno non ti paga e scopri che non ti vuoi pagare e ha altre proprietà, ma è giusto andare a delle procedure anche accelerate. Il problema è non sparare nel mucchio, perché il rischio di un decreto fatto così, fatto alla Carlona, è di sparare nel mucchio, di mettere nei casini, scusatemi il termine, anche persone che non ci devono finire. Allora poi voglia fare la moratoria sui mutui e bene patuelli che riguarderanno solo i prossimi mutui, così i giovani avranno ancora più voglia di investire. Già la casa non se la comprano, e quando se la comprano hanno anche un trattamento di favore. Non lo so, mi sembra tutto un po' schizofrenico. Andiamo sulla borsa, più 1%, notizie sul fronte Espresso non le vedo, Espresso e la Stampa non le vedo. Più 1% oggi, al di là di quel tema, bene oggi tutte le banche popolari. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Non mi dire che per i mutui. Beh sì, sicuramente per quello. No, scherzi, si vero? Prevedono grandi, insomma, grandi incassi. Ma scherzi, spero che tu scherzi, perché ma no, assolutamente. Manca solo una roba del genere. Oddio, sai, con il cinismo del mercato uno poteva anche fare un ragionamento del genere. Comunque, Banco Popolare più 7,12%, Unicredit più 5,20%, Popolare Emilia Romagna più 4,90%, Banca Popolare di Milano più 4,80%, Mediobanca più 3,80%, come Intesa San Paolo il 3,40% lo guadagna UBI e anche il Monte dei Paschi di Siena. Le Popolari. Sì, le Popolari, c'è grande attesa per la fusione che sembra imminente tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano. Non è un caso che il Banco Popolare è la migliore oggi, più 7,1%, come dicevi tu, BPM più 4,8%, ma c'è da registrare anche il buon recupero di Unicredito che guadagna oltre il 5%, sono tutti titoli che da inizio anno sono stati molto penalizzati, in particolare sui, diciamo, i problemi dei crediti inesigibili, delle sofferenze che adesso piano piano stanno cercando di recuperare terreno. Tra questi c'è anche il Monte dei Paschi che oggi fa più 3,4%. Allora, più 3,4% sì, e devo dire, ma chi mi chiede di nuovo? No, guardate che non sto sponsorizzando Di Battista, abbiamo fatto ascoltare Di Battista perché hanno occupato il corridoio della Commissione del Senato, ma per favore, adesso se facciamo una proporzione tra quanto giustamente a voce il governo, perché è il governo, e quanta voce l'opposizione, ma che adesso mi rompete le scatole perché abbiamo fatto ascoltare Di Battista, ma per favore abituatevi che l'informazione è varia ed è libera, ok? Poi può piacere o non piacere, hanno sempre questa cosa di tifo da stadio. Andiamo avanti. Oltre Rizzoli, Corriere della Sera e Gruppo Espresso e La Stampa, ci sono altri titoli oggi in evidenza, non solo Fiat, appunto, più 2,40%. Penso anche a Luxottica, che però ha girato pesantemente in negativo, infatti è il peggiore, meno 4,70%. E qui c'è l'effetto Conti, ma soprattutto l'effetto dell'outlook, cioè delle prospettive per il 2016 e 2018, prospettive diciamo che vedono un tasso di crescita della marginalità importante, ma comunque inferiore a quella che è, diciamo, a quello che è il track record, a quella che è la tradizione di Luxottica. Questo in particolare perché Luxottica investirà molto. Il mercato oggi si è concentrato su questo tema, cioè il fatto che la marginalità crescerà meno nei prossimi due anni e appena il titolo, che è sceso ormai a ridosso dei 50 euro. Ancora chi perde? Finmeccanica meno 1,80, Terna pure, CNH meno 1,40, Atlantia meno 1,1, come Buzzi Unicem, Tods meno 1%, come A2A, Terna è A2A, mentre Campari bene anche oggi, oddio, più 1,40% nel finale, Terna è A2A. Oggi è stata una giornata poco felice per il comparto delle utility. Terna ha ceduto l'1,8%, A2A ha perso l'1%, c'è attesa, c'è stata una nuova proroga per l'acquisizione di LGH, l'operazione dovrebbe comunque essere chiusa in termini di accordo vincolante entro venerdì, e comunque una seduta non particolarmente brillante per le utility. Anche Snam ha ceduto lo 0,8%. Per quanto riguarda Campari, invece, ieri aveva festeggiato con un rialzo molto corposo i conti 2015, oggi prosegue in questo rialzo, conti che hanno visto i profitti salire a 186 milioni di euro in tutto il 2015 con più 20%, una crescita superiore a quelle che erano le attese del mercato. Ancora per quello che riguarda i migliori e i peggiori, l'Espresso chiude comunque con il 15,90% di rialzo, quindi il mercato ci stracrede all'operazione con Fiat. Devo dire che si è mosso anche il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, immagino così per assonanza, più 7,21%, non perché sia coinvolto in nessuna operazione. In teoria, cioè, comunque, però, se si fa questa operazione, comunque Fiat dovrebbe uscire da RCS. Quindi, diciamo che il mercato in questi casi premia sempre un po' i rimescolamenti potenziali dell'azionariato, quindi in questo senso, seppur indirettamente, RCS... Sì, no, hai ragione, perché secondo le indiscrezioni, se si facesse l'operazione in cui Fiat, che controlla la Stampa, e fa un'operazione di fusione con il gruppo L'Espresso, questo sarebbe anche propedeutico all'uscita di Fiat dall'azionariato di Rizzoli Corriere della Sera. Hai ragione a ricordarlo. Credito Valterinese più 6%, alla luce, insomma, delle popolari e del risico bancario. Moleskine più 7,90, fronte opposto di Main Group meno 5,90, e Prelios meno 5,50%. E TAS meno 4,70%. Tornando sul listino principale, Telecom Italia oggi, c'è notizia oltre che notizia, diciamo, sull'andamento di borsa. Sì, c'è la notizia che Vivendi ha comunicato alla SEC l'incremento della quota in Telecom dal 22,8 al 23,8%. Diciamo che è una notizia che ha alimentato gli acquisti sul titolo. Si scommette che Vivendi incrementerà ancora la propria quota per portarla a ridosso della soglia d'OPA, che come sappiamo è fissata al 25%, di qui il titolo che si è mosso a rialzo ha guadagnato l'1,6%. Ancora tra Michele del petrolio, oggi il petrolio è rimasto, devo dire che è qualche seduta, che è qualche giornata che il petrolio sta stabilmente sopra i 32-33 dollari al barile, oggi era 34, leggermente in calo, comunque Eni più 0,70% da questo punto di vista, e Saipem più 2,16%. Ancora tra chi è ceduto, ricordo, oltre ai titoli già citati, Tenaris meno 0,70%, Mediaset meno 0,80%, come Snam e Poste Italiane. Nel ringraziare Ciao Conde nella Radio Corriere sulle 24 ore, vorrei farvi ascoltare invece un'altra cosa che ha detto Patuelli, poi torniamo magari sul tema dei mutui a margine del convegno della LUIS. sulla banconota da 500 euro. Perché? Perché ormai Draghi la vuole eliminare. Noi obiettammo quando fu annunciata che era una banconota che serviva solo alla mafia, alla 'ndrangheta e agli evasori fiscali modello Spallone. Beh, devo dire che la pensa così anche l'ABI, quindi le banche italiane. Io sono arrivato alla convinzione che sia bene che le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea pensino a ritirare dalla circolazione le banconote da 500 euro. Sono uno strumento facile per il riciclaggio, non si trovano più in Italia, evidentemente sono state tesaurizzate soprattutto dai riciclatori e per l'Italia è un importo sproporzionato all'abitudine della circolazione del denaro. L'ultima banconota in lire era massima di 100.000 lire. Questa banconota da 500 euro equivale a 10 volte a 1 milione di vecchie lire. È interessante però, a dimostrazione che servono solo la mafia e i grandi evasori, che siano sparite dalla circolazione. Infatti io l'ho vista una volta sola, una rogna pazzesca per cambiarla, una banconota da 500 euro. Ma tutti siamo convinti ormai che tanto quella roba lì sia servita solo per la parte illecita, soprattutto per la parte illecita. Allora, andiamo verso GR24, però una risposta ancora la voglio dare agli ascoltatori. Le rate dei mutui vanno pagate comunque, siamo tutti d'accordo. E siamo anche d'accordo che vada velocizzata la parte civile, cioè che una banca non può aspettare 7 anni per arrivare all'esecuzione. Detto questo, il tema è come fai un decreto che recepisce una direttiva europea, come lo spieghi, come lo racconti, come non crei panico. Cito 3 cose che stanno emergendo dai vostri messaggi. 1. Quanta parte dell'immobile, magari l'immobile è al 60% della banca, come faccio a essere sicuro che l'immobile non venga svenduto? 2. Cosa succede se perdo il lavoro? Andiamo a colpire i disoccupati dopo aver fatto la moratoria sui mutui? Quindi ci saranno delle eccezioni? E da questo punto di vista, voglio dire, non c'è dubbio che manchino tutto un insieme di informazioni. Per cui attenzione, la procedura non si capisce, anche quello che si capisce è che le 7 rate non devono essere necessariamente consecutive. Comunque ne parliamo dopo il GR24. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo che molti stanno scrivendo perché il presidente dell'ABI Patuelli non si ricordava che la banconota di valore più alto in lire era da 500.000 lire. Vabbè, non mi sembra sì, in questo momento dirimente. No, il terzo aspetto che riguarda il decreto sui mutui, ha a che fare con gli affitti. Molti ci stanno scrivendo, ma scusatemi, se io pago il mutuo della casa con l'affitto che ho e l'affittuario non mi paga per 7 mesi, cioè cosa... E questo è il problema. Va bene snellire le procedure se tu le precisi molto bene, perché sennò il messaggio che passa, c'è un recepimento di una direttiva europea. Guardate che mutatis mutandis è un po' quello che è successo con il bail-in e il decreto di fine novembre, perché il bail-in lo sapevamo da anni che doveva entrare in vigore. L'Italia non ha sfruttato le possibilità precedenti, ha applicato, si è vista dire no su una prima e anche seconda proposta di salvare gli obbligazionisti con i depositi bancari, con il deposito di garanzia, il fondo di garanzia dei depositi bancari, e si è trovata all'ultimo minuto con un bail-in che stava già per entrare in vigore praticamente un mese e pochi giorni dopo. Quindi l'invito è a precisare bene i contorni di questa possibilità che viene data alle banche quando accenderai un nuovo mutuo, di inserire la clausola che se non paghi 7 rate, anche non consecutive, si può saltare la parte di procedura, diciamo, giudiziaria per arrivare poi all'esecuzione, ma può andare direttamente alla banca. Questo a mio avviso va chiarito con esattezza, cioè tutte le fattispecie e chi ne deve essere escluso. Cambiamo completamente tema. Allora, in attesa, ma mi sembra di aver capito, chiedo conferma ad Andrea Biondi, che il comunicato del gruppo L'Espresso dovrebbe arrivare alle 18.30, quindi insomma a programma terminato, ma poi ve lo racconteranno chiaramente i nostri GR24. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Il tema è chiaramente sono le indiscrezioni non smentite oggi nemmeno da Marchionne a Ginevra. Ha detto non commento, sono qua per parlare di auto, però appunto non è una smentita, di un'operazione di integrazione tra i gruppi editoriali L'Espresso, quindi anche Repubblica, ma non solo, c'è anche Radio DJ e oltre che settimana L'Espresso, 350 milioni di euro di capitalizzazione, 607 di giro d'affari, e il 2015 si è chiuso con un utile di 17 milioni di euro. E quindi il principale azionista resta la famiglia De Benedetti con il 53%, con la CIR, e la Stampa, o meglio la Itedi, che pubblica la Stampa di Torino e il Secolo XIX di Genova, con, se ho ben capito, come accennavamo prima Andrea, anche un cotè che riguarderebbe la stessa partecipazione del gruppo Fiat in Rizzoli, Corriere della Sera. Allora, da cosa nasce questa operazione, con quali obiettivi e che ricadute avrebbe anche sul fronte Corriere della Sera? Ma allora, l'operazione nasce innanzitutto da una situazione che riguarda l'editoria, che è una situazione di grandissimo cambiamento e di grandissima crisi. Si parla di una crisi dell'editoria cartacea, di un momento di cambiamento diciamo unico nella storia, dall'invenzione della stampa in poi, perché effettivamente adesso le testate editoriali concorrono non tanto fra di loro, ma concorrono anche con i cosiddetti over the top, i giganti del web, nel accaparrarsi l'attenzione dei lettori, lettori che in Italia sono stati anche sempre pochi, insomma, non più di tanti, e che in questa fase veramente si sono ridotti anche per un utilizzo dei media della gente che insomma cerca dei contenuti diversi su medium diversi. Ora è chiaro che questa operazione è un'operazione che cambierà totalmente lo scenario dell'editoria nazionale, anche per l'impatto che ci sarà chiaramente sul discorso di RCS, perché Exor è titolare del 30% poi di Fiat Chrysler, e questa è anche un'altra cosa da tenere presente, e c'è, come dire, la partecipazione all'interno del gruppo RCS da parte della famiglia Agnelli sembra che sia in diluizione con questa operazione, che chiaramente porterebbe Itedi, la nuova creatura nata dall'unione della stampa e del Secolo XIX, appunto nell'ambito del gruppo L'Espresso. Sarà importante capire quali saranno i nuovi equilibri che nasceranno da questa unione, chiaramente. Cioè, appunto, chi comanderà? Beh, anche chi comanderà, anche se chiaramente le testate del gruppo L'Espresso forse in questo momento sono testate che godono di un miglior rapporto di forza. C'è da dire che se guardiamo solo all'ambito dei quotidiani, Repubblica è il terzo quotidiano per diffusioni complessive, se consideriamo diciamo sia le diffusioni in edicola sia le diffusioni attraverso il digitale. La Stampa si gioca con la Gazzetta dello Sport il quarto e il quinto posto, quindi parliamo, come dire, di player di riferimento all'interno, certo, del mercato editoriale. E staremo a vedere. È chiaro che, come tu ricordavi, c'è l'obiettivo anche di avere una maggior massa critica, porsi su un mercato che, insomma, è un mercato difficile, certo, anche con un maggiore potere contrattuale, immagino in primo luogo sulla raccolta pubblicitaria da fare integrata, da avere in maniera più consistente, con un riassetto complessivo come tu ricordavi. Ti risulta che il comunicato arriverà alle 18:30, che devo lasciare linea adesso al traffico? Il comunicato è in uscita. È in uscita, quindi entro le 18:30. Bene, grazie. Intanto, casomai ti richiameremo ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Devo chiarire una cosa agli ascoltatori, poi lascio veramente la linea al traffico, a chi si fosse appena messo in collegamento. Guardate che l'abbiamo detto che esiste già la clausola, la regola che consente, in caso di ritardato pagamento di 7 rate del mutuo, di avviare le procedure di esecuzione. C'è già nel testo unico bancario l'articolo 40. La differenza è che in questo caso si salterebbero le procedure esecutive giudiziarie, cioè non si aspetterebbe la procedura esecutiva di carattere giudiziario. Questa è la differenza. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, per WhatsApp. Intanto, dopo il traffico, ci occuperemo, visto che si è inaugurato il Salone dell'Auto di Ginevra, dei dati sulle matricolazioni di ieri, sono arrivati a programma praticamente già terminato, per capire in Italia se siamo di fronte a una vera inversione di tendenza o a un anticipo sostanzialmente di acquisti già programmati dovuto alle promozioni delle varie case. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia e, come annunciato, parliamo dei fattori che hanno contribuito a questo dato sul mercato dell'auto oggettivamente incredibile, perché il 27,3% di immatricolazioni non si vedeva dal 2011 e soprattutto poi, come già dicevamo, il gruppo Fiat ha avuto una crescita superiore alla media del settore, più 32%, Fiat più 34%, Jeep più 48, Lancia più 30, Alfa Romeo più 7,5, con una quota del mercato del lingotto che sale al 29%, dal 28% di febbraio 2015. Bene anche Volkswagen, nonostante il Dieselgate non ci sono segnali di flessione, anzi cresce del 30%, quindi sopra la media delle matricolazioni, con Audi che ha registrato un più 36,3%, Skoda più 37%, Seat più 13%. Tutti i gruppi hanno risultati positivi, chi sta un po' sotto la media è Renault più 19%, BMW in media più 23%, Toyota più 23%, Ford più 33%, GM più 24%, Daimler più 33%. Vorrei capire i motivi con Filippo Pavan Bernacchi, che è presidente di Federauto, quindi l'associazione che riunisce i concessionari di auto, veicoli commerciali e veicoli industriali. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, si è detto, al di là del successo della Fiat, già ieri ricordavamo, nella top 10 6 sono marchi del gruppo Fiat e le prime 4, ai primi 4 posti sono Panda, Y, 500 LE e 500. Da quello che ho capito io, ma vorrei conferma da lei, Qui c'è stato un doppio effetto. Da un lato sono riprese quelle che voi chiamate sostituzioni, e quindi il tasso di sostituzione, chi deve cambiare l'auto perché inizia ad avere i suoi anni, ma si fida un po' di più delle sue prospettive future, se no aspetti un altro mese o aspetti un altro anno. E dall'altro la parte promozioni e chilometri zeri, incentivi, quant'altro. Quale dei due ha pesato di più secondo lei? Ma noi abbiamo visto che quest'anno, gennaio e febbraio, sono partite delle promozioni molto forti che non si vedevano da tempo, sia delle case che dei concessionari, e sicuramente hanno anche colpito il consumatore con il tasto giusto, cioè la sostituzione delle vetture obsolete. Pensate che in Italia in questo momento il 43% del circolante, che sono circa 37 milioni di autoveicoli, hanno più di 10 anni, e di questi 37 milioni di veicoli circa il 30% è altamente inquinante. Quindi c'è una domanda di sostituzione che è insopprimibile, perché il consumatore può ritardare, ma poi a un certo punto deve assolutamente sostituire questa vettura. Il dubbio che abbiamo noi e che hanno un po' gli analisti che siamo in questo settore è se noi con queste promozioni stiamo anticipando della domanda, e che quindi nei prossimi mesi che riguardano quest'anno andiamo a riassorbire un po' questi aumenti molto, molto grandi, oppure se questo trend verrà confermato. E se quest'anno aumentassimo il mercato del 7% rispetto all'anno scorso era cresciuto del 15% rispetto all'anno precedente, vorrebbe dire chiudere a 1.670.000 pezzi, vuol dire tornare al mercato del 1984. Se invece viene confermato questo trend di crescita, potremmo chiudere 1.800.000 pezzi e andare indietro solo di 20 anni al 1996, tanto per contestualizzare un po' i numeri, che sono ancora molto bassi. Io penso che ci sia anche un cambiamento, lo dico molto tranquillamente, un cambiamento culturale in atto, per cui la crisi spiega molto, ma c'è anche un diverso modo di concepire l'automobile. Non è più solo status, non è più solo possesso ma utilizzo. Insomma, ci sarebbe un ragionamento un po' più ampio da fare che solo il tema legato al potere d'acquisto e alla crisi. Eravamo abituati anche a cambiare l'auto una volta ogni 3 anni, in media. Secondo me ci sono dei meccanismi culturali che, magari innescati dalla crisi, però una volta che si verifica, una volta che io capisco che l'auto la posso cambiare ogni 5 invece che ogni 3, e non cambia nulla nella mia vita sociale, nel mio agire, nella mia reputazione, nel modo in cui, diciamo, dimostro il mio status, non torno più indietro. Questo è un po' il mio sentore, cioè non possiamo neanche immaginare di poter tornare agli anni Bernacchi 80, 90, 2000, in cui si compravano auto con record, ma è un altro mondo, io ve lo dico, a mio avviso è un altro mondo. Certo. Detto ciò, quello che lei ci sta dicendo però nello specifico, nel contingente, è: dobbiamo capire se con tutte queste promozioni chi aveva deciso di sostituire l'auto perché l'aveva compressa troppo, l'aveva rimandata troppo questa scelta, ne ha approfittato adesso e quindi abbiamo sostanzialmente solo anticipato acquisti futuri, o se è aumentata complessivamente la torta. Assomiglia un po' al ragionamento che si faceva ai tempi delle assunzioni, chi attendeva il job, la decontribuzione o no. Ma secondo lei delle due qual è? Cioè, avete semplicemente anticipato a un mese, 2 mesi le vendite dell'anno, e quindi il dato è molto forte in questi mesi ma rischia di essere piatto nei prossimi, o c'è un po' più di fiducia, perché l'auto è il bene durevole classico, dove se io ho un po' più di fiducia sulla mia situazione futura la cambio, se no resto fermo. Ma allora, tornando a quello che ha detto lei, sicuramente il concetto l'auto sta cambiando, l'approccio all'auto sta cambiando. In Italia però il tasso di motorizzazione è il più alto d'Europa. Perché? Perché i mezzi pubblici purtroppo sono molto indietro rispetto agli altri paesi europei, per cui per andare dal punto A al punto B, soprattutto non nei grandi centri urbani, si deve obtorto collo usare l'automobile. Allora, quello che diciamo noi è esattamente quello che dice lei, cioè noi dobbiamo governare un cambiamento culturale, e lo Stato deve governare un cambiamento culturale. Dobbiamo scegliere verso che direzione andare, verso che motorizzazione andare, verso che tecnologia andare, e quindi orientare questo cambiamento. e vivere il momento, quindi noi non abbiamo nessun problema da questo punto di vista, non è che abbiamo paura, e bisogna però prendere atto che se blocchiamo i centri urbani, se andiamo con le targhe alterne, mettiamo limiti di 30 km all'ora eccetera, sono palliativi che non funzionano, bisogna prendere il toro per le corna e quindi per diminuire l'inquinamento atmosferico dato dalle auto che impattano circa il 30% del totale, perché la parte del leone la fanno i riscaldamenti delle nostre abitazioni, la climatizzazione, bisogna andare su nuove tecnologie, su Euro 6, su vetture ibride, elettriche a metano, a GPL, quindi solo svecchiando il circolante si possono avere vetture anche più sicure con ABS, airbag, ESP, e quindi da una parte si hanno costi sociali inferiori in caso di incidente perché si limitano le morti e l'invalidità permanenti, dall'altro si aumenta la qualità dell'aria, poi noi contribuiamo in maniera forte al prodotto interno lordo perché contribuiamo con l'11% del PIL e anche contribuiamo con l'occupazione, perché la nostra sfida guardi, il ragionamento è chiaro, dico solo che se pensate che lo si risolva con l'Euro 6, secondo me la vicenda Volkswagen dimostra che si sta toccando un tetto a quanto poco può emettere un'auto che va con gasolio o con benzina. La vera rivoluzione non è colpa vostra, nel senso che voi le vendete le auto, e se le case automobilistiche iniziassero a investire seriamente o nell'ibrido, e quindi doppia alimentazione, o addirittura nell'idrogeno in altre soluzioni, ecco, e questo però, vale anche per il modo che ho io di pensare l'auto, cioè cambierebbe l'utilizzo dell'auto stessa. Sì, però lei ha ragione se confrontiamo un Euro 6 a un Euro 5 o un Euro 4, ma se prendiamo l'Euro 0, 1 e 2 e ci sono 11 milioni di autoveicoli che sono Euro 0, 1 e 2, capisce che passare a un Euro 6 o passare a una vettura naturalmente si inquina 100 volte meno di una vettura di quel tipo, no? Quindi in ogni caso noi abbiamo chiesto e stiamo incontrando la politica per affrontare questi temi, perché o i cambiamenti si subiscono o si possono orientare. Io credo che si possano orientare e si può andare tutti in una direzione che accontenti quindi, un po' tutti. Se ho ben capito, nel ringraziarla, lei non è così convinto che questo segni un'inversione di tendenza di un consumatore che dice vabbè, adesso posso cambiare, sostituire i miei beni durevoli a partire dall'auto perché la situazione è più rosea, teme che questo sia un'anticipazione di acquisti futuri, quindi poi il gioco si annulli, si assomma a zero nel corso dell'anno e aspetta i prossimi mesi, ho capito bene? Ma guardi, quello che influisce sul mercato dell'auto è che assieme agli immobili sono i beni più costosi che può affrontare una famiglia, un'azienda, sono anche la situazione geopolitica, costo degli idrocarburi, abbiamo l'ISIS, abbiamo la Libia, abbiamo il problema dell'immigrazione, quindi i fattori sono molteplici. Noi registriamo una fiducia nel futuro maggiore sia dei consumatori che dei concessionari e auspichiamo che questo trend venga consolidato. Temiamo, conoscendo un po' così gli elementi in cui ci muoviamo, che non cresceremo con questo tasso di crescita, ma ridurremo il tasso di crescita. Certo, è una cosa positiva da dire rispetto all'Europa. Per esempio nel 2015 l'Europa era cresciuta del 9,2%, chiudendo a 14 milioni e 200 mila pezzi, noi siamo cresciuti del 15,8%, quindi siamo cresciuti più della media europea. Ecco, chiarissimo, fermo restando che l'ISIS e i migranti possono essere problemi di carattere geopolitico e gestionale, ma non è che io non compro l'auto, parliamoci chiaro, perché ho paura dell'ISIS, io non compro l'auto perché ho una prospettiva personale sulla mia economia, sul mio reddito, sulla mia crescita negativa, oppure ritengo che il paese sia a rischio e voglio tenermi dei soldi in saccoccia. A mio avviso pesa molto più le crisi bancarie e quello che sta capitando ad alcune banche che non l'ISIS e i migranti. Cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se io penso che il sistema delle banche e della borsa possa scricchiolare, tengo i risparmi. Migranti hanno, non diamo tutte le colpe ai migranti. Ecco. Comunque, Filippo Pavan Bernacchi, grazie, presidente di Federauto, grazie per essere stato in collegamento con noi. Grazie a tutti. E grazie di nuovo, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.